umane situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. There's just human contradictions, feeling happy, feeling sad, these emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Oh yeah, sto pensando a noi. Cose della vita vanno prese un po' così. Some for worse and some for better, but through it all we come so far. Già come vedi, io sto ancora in piedi. Perché sono umani tutti i sogni miei. Cerco